sono macchiato, macchiato, macchiato, por favore, por favore. Espresso macchiato, por ne ho. Mi amore, espresso macchiato, macchiato, macchiato, por favore, por favore. Espresso macchiato, espresso macchiato. Macchiato, por favore, espresso macchiato.